Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Libero di essere me stesso, libero di camminare, andare in giro, puoi mostrare a tutti quanti la mia pancia. Non me l'aspettavo, non credevo di volerti così bene. Chi sarà la tua gemella, indifesa pecorella? Che grazia che hai, ti amo, lo sai. Pancia, misuratela, guardatela, scopritela, toccatela. E la pancia, la star della puntata di oggi, ha i suoi gusti, le sue antipatie, le sue simpatie. La pancia sente e si fa sentire, parla borbotta, si irrita e si distende, come noi in fondo cerca di trovare, di mantenere il suo equilibrio. Allora diamole una mano, ci aiuta oggi il professor Antonio Gasbarrini, professore di gastroenterologia all'Università Cattolica e direttore della divisione di medicina interna e gastroenterologia al Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. A proposito di pancia, professore, delicata, risente delle abitudini di vita, interpreta e direi in alcuni casi somatizza molte delle tensioni che proviamo a livello conscio ed inconscio. Beh sì, assolutamente, calcolate che la nostra pancia in realtà al suo interno ha tanti organi che sono molto delicati, in particolare l'apparato digerente, l'esofago, lo stomaco, l'intestino tenue, il fegato con la colecisti, il colon, tutti organi che sono controllati in maniera totale dal sistema nervoso. Quindi a tutti gli effetti possiamo dire che l'apparato digerente e la pancia che lo contiene sono organi che possono essere pesantemente stimolati da condizioni stressanti e di nervosismo. Se vi riconoscete, 800 24 00 24. La pancia l'abbiamo tutta e, come diceva il professor Gasbarrini, è un universo abbastanza complesso, perché dentro la pancia ci sono tanti organi che rispondono in modo differente agli stimoli dello stress, e nei nostri modi di dire tiriamo in ballo spesso lo stomaco. Professore, di una persona antipatica si dice mi sta sullo stomaco, si dice un pugno nello stomaco per descrivere la violenza di un evento magari che ci ha spaventato, hai il pelo sullo stomaco, che non ha rispetto per nessuno. Insomma, questo per dire che i modi di dire dimostrano che noi già sappiamo che tra stomaco ed emozioni c'è un legame molto stretto. Lo stomaco, ad esempio, si chiude, duole, brucia, anche questa è una reazione allo stress. Assolutamente sì, ma innanzitutto noi spesso ci dimentichiamo dello stomaco e della sua complessità. Calcolate che lo stomaco, la sua prima funzione è quella di accogliere il cibo, è il primo organo che lo accoglie, di fondo l'esofago è un organo di passaggio. Il cibo arriva nello stomaco, lo stomaco produce degli acidi molto potenti, acidi che sono in grado di cominciare il processo di digestione. Calcolate quanto deve essere importante questa secrezione di acido, ad esempio per digerire una bistecca, se noi mangiamo una fiorentina. Quindi è veramente un acido, produce acidi molto potenti. È chiaro che se lo stomaco comincia a produrre dell'acido senza cibo, a volte questo acido può risalire, ad esempio nell'esofago, e dare quella che si chiama esofagite da reflusso. Quindi è un organo di grande potenza, è veramente un incredibile laboratorio in grado di cominciare la digestione, che però può risentire di stimoli stressanti che possono cominciare e stimolare la produzione di acido. Ci sono persone che avvertono lo stress proprio a livello di stomaco. Quali sono i segnali, professor Gasbarrini, che le vengono raccontati e da cui lei può capire come medico che potrebbe essere lo stress a provocarli? Beh, innanzitutto quasi sempre il paziente in genere arriva con un sintomo, no? Non è che arriva e ha la gastrite o la colecistite, arriva con un sintomo. Sintomo vuol dire ho dolore alla bocca dello stomaco, ho un senso di pesantezza, dopo che ho mangiato sento lo stomaco pesante, ho la digestione lenta, tutti questi sintomi che poi sono quelli che ci devono guidare. E quasi sempre quando i problemi riguardano lo stomaco, se uno poi scava un pochino in quella che noi chiamiamo l'anamnesi, no? La storia clinica del paziente, ci accorgiamo che qualcosa è cominciato o in seguito a uno stress, o perché uno ha modificato le condizioni della vita, o perché anche per una condizione stressante magari ha esagerato un po' con le bevande alcoliche, ha aumentato il fumo. Quasi sempre purtroppo nella nostra vita ci sono condizioni stressanti. Alcune di queste condizioni fanno parte della normale vita, altre possono essere determinate da condizioni particolarmente pesanti. E attenzione, lo stress non è solamente uno stress lavorativo, può essere anche un lutto familiare, può essere anche una separazione, può essere anche la difficoltà di un figlio che ad esempio parte e va a studiare in un'altra città. È molto importante andare sempre per noi gastroenterologi a scavare nelle condizioni psicologiche del paziente che abbiamo di fronte. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde a vostra disposizione, ma potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Professor Gasbarrini, abbiamo parlato dello stomaco, ma noi oggi parleremo proprio della pancia in generale, quindi abbiamo parlato dello stomaco, ma sappiamo che nella pancia c'è anche il secondo cervello, il nostro intestino che reagisce allo stress. Questo lo sappiamo per esperienza diretta, ma lo sanno bene anche i clinici, i ricercatori che studiano le relazioni dello stress su quello che ormai tutti conosciamo, no? come secondo cervello, dove vive una comunità batterica che ha un'importanza cruciale per la vita dell'organismo, al punto che i biologi considerano tali batteri un vero e proprio organo all'interno del corpo umano e lo identificano con il nome di microbiota. Lo stress svolge un'azione di disturbo anche sulla flora batterica? Se la flora batterica è un vivaio, mi piace immaginarla così, possiamo dire che lo stress è come una bufera di vento? Assolutamente, lei ha detto in maniera molto corretta che il microbiota è un qualche cosa che stiamo scoprendo, veramente negli ultimi 10-15 anni la quantità di articoli, di pubblicazioni, di ricerche hanno fatto vedere che nel nostro intestino vive tutta la nostra vita un vero e proprio organo che è il microbiota, è un organo che pesa circa un chilo, fatto di batteri mutualisti, li chiamiamo mutualisti perché prendono qualcosa da noi, cioè gli diamo il caldo, gli diamo l'acqua, gli diamo il cibo e loro ci danno qualcosa. E questi batteri albergano generalmente nel colon, che è l'ultima parte dell'intestino, però possono ogni tanto andare anche nell'intestino tenue, cioè questo organo centrale lungo 6 metri che collega lo stomaco al colon. Questa comunità batterica viene controllata e deve essere continuamente tenuta sotto controllo dall'intestino e questo lo fa con la motilità, producendo degli acidi, producendo i succhi biliari, i succhi pancreatici, però d'altronde voi capite bene che lo stress, se può alterare, abbiamo detto prima, no, la secrezione di acido dallo stomaco, può anche alterare la motilità. Quante volte noi dopo una condizione molto stressante e faticosa dobbiamo andare subito in bagno? È la tipica dimostrazione di come la motilità può in qualche modo avere un enorme influsso sull'intestino. Se lì dentro alberga e sta tutto il tempo una comunità di batteri, è chiaro che un aumento della motilità intestinale può dare fastidio a questi batteri. Quindi in qualche modo una condizione di stress può alterare questo delicatissimo equilibrio tra il nostro intestino e questi batteri, tra virgolette, buoni che stanno al suo interno. Tra l'altro, professor Gasbarrini, della flora intestinale conoscete sempre di più e ultimamente abbiamo letto che sono stati identificati dei batteri che promuovono la magrezza e anche un metabolismo sano e vivace. E sempre nella flora intestinale, nella flora batterica, avete capito che dalla flora batterica dipende quell'aumento di peso che preoccupa chi smette di fumare. Beh, diciamo questo, che i batteri intestinali hanno un ruolo enorme nella infiammazione, quindi in tutte le malattie infiammatorie dell'intestino, possono avere un ruolo anche nello sviluppo dei tumori e poi possono avere un ruolo molto importante nel metabolismo. Metabolismo cosa vuol dire di fondo? Hanno un ruolo molto importante nel determinismo del diabete, quindi la cosiddetta insulinoresistenza, e hanno anche un ruolo nell'obesità. Si è visto in particolare che addirittura se noi trapiantiamo i batteri intestinali di animali magri in animali grassi, questi animali grassi possono diventare magri e viceversa. Sull'uomo siamo ancora ai primordi, no, in questo tipo di ricerche, ma sicuramente il microbiota intestinale ha un ruolo enorme nel controllare quello che noi dobbiamo assorbire. Quindi capite bene che è una vera e propria rivoluzione copernicana anche per chi si occupa di nutrizione e di diete. Angela ci chiama dalla provincia di Torino e poi Riccardo dalla provincia di Cagliari. Angela, benvenuta, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare un attimino, fare una domanda al professore. Ecco, io ho un ragazzo, un mio figlio, di 30 anni, Nonostante non beva, mangia pochissimo, sta attento a tutto, ha sempre questa pancetta che lui giustamente non sopporta e quindi mangia sempre meno. Poi quando mangia verdure o frutta, che io cerco di dargli, perché anche se a lui non piace, lui va subito in bagno. Quindi una pancetta un po' evidente e direi particolarmente sensibile, professor Gasbarrini. Allora, diciamo questo, innanzitutto come sempre non si può non generalizzare su alcuni concetti, perché ricordiamoci sempre che in un ragazzo dietro, io quando si intende pancetta, io intendo ovviamente non un po' di adipe, no, nell'addome. Io che quella dico, va giù se uno fa un po', cammina un po', diciamo la verità, no? La mamma lo manda a fare la spesa? Esatto, esatto. No, io adesso intendo pancetta nel senso addome teso, addome gonfio, no? Con l'aria dentro. È chiaro che, l'ha detto molto giustamente, un po' di un addome gonfio, specie dopo che ha mangiato. Come vi ho detto, quando il cibo entra deve essere digerito, assorbito dal nostro stomaco e dall'intestino, e poi una parte di questo cibo, soprattutto i residui, arrivano al colon, e lì questi residui vengono sottoposti a un processo di fermentazione e putrefazione da parte dei batteri intestinali. La fermentazione produce gas, quindi è chiaro che voi capite come la produzione di gas può essere in qualche modo correlata a un processo intestinale che nel suo complesso, cioè il rapporto intestino-batteri, può non funzionare perfettamente. Può essere dovuta anche da una motilità troppo veloce, cioè una persona che mangia è molto stressata, quindi il cibo va molto rapidamente dallo stomaco al colon senza stare nel tempo giusto nell'intestino tenue, e dato che arriva che non è stato completamente assorbito e digerito, viene subito fermentato dai batteri intestinali. Questo è uno dei classici meccanismi alla base del meteorismo, del gonfiore rapido postprandiale. Però è chiaro che poi ci possono essere anche delle malattie dietro, no? Quindi è chiaro che il medico deve sempre essere molto cauto, escludere malattie e poi vedere quale può essere l'impatto dello stress o del nervosismo sulla motilità dell'intestino. Nina, ho mangiato troppo e stasera non ceno. Ma se non hai toccato niente. Come niente? Le farfalline all'uovo. Un poco di brodo vegetale. Ma le farfalline all'uovo sono pesantucce. C'è sta l'uovo. C'ho la pancia gonfia. Ti sei mangiato la trippa del signor Centocelle e questo è il risultato. Poi il signor Centocelle è romano. Teniamo il vicino romano, io non mi mangio la trippa. E come faccio un maggiore dei carabinieri con la pancia? Pancia gonfia, ma non solo, pancia che borbotta, pancia che ci fa capire che sta attraversando un periodo di stress e reagisce con segnali di malessere. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Lorenzo Morelli, preside della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, a tutti gli ascoltatori. Insomma, in questo grande vivaio vivono dei batteri che cercano, no, di mantenersi in equilibrio. Noi sappiamo però che ci sono dei batteri buoni che aiutano la nostra pancia a stare bene. Sono i probiotici, che stanno sempre più catturando l'interesse di psicologi e psichiatri. Insomma, le stanno un po' rubando il lavoro, professore. No, io glielo dico, Io glielo dico, intanto si guardi intorno, perché gli psicologi sono molto interessati, anche gli psichiatri. Perché, professore? Perché io sentivo prima che parlavate della relazione fra stress, diciamo, e certi fenomeni intestinali, il tutto è mediato dal fatto che l'intestino è un grande contenitore anche di cellule nervose, è il secondo contenitore di cellule nervose dopo il cervello. E i batteri che abbiamo nell'intestino parlano con queste cellule nervose. Si è partiti da degli studi molto semplici, non so, lo stress prima degli esami, eccetera, eccetera. E però ultimamente, sto parlando di articoli usciti nel 2013, cioè quest'anno, le leggo solamente due titoli che sono veramente esemplari. Uno è su un giornale di neurogastroenterologia e si intitola «I microbi melanconici». Un legame fra i batteri dell'intestino e la depressione? Punto interrogativo. Il secondo articolo si intitola «Gli psicobiotici, una nuova classe di probiotici». Quindi siamo a livello di ricerca, ma chiaramente c'è molto interesse per stabilire un legame, per vedere se c'è un legame fra il tipo di batteri che abbiamo nell'intestino e non solo la salute immunitaria, la salute intestinale, ma anche un equilibrio nervoso. Quindi siamo un po', mi passi il termine, nelle mani dei batteri, da loro dipende un po' il nostro umore, la nostra reazione alle malattie, la nostra linea. Ma diciamo che possono essere un tassello di un mosaico formato da molte componenti, molte altre componenti, ma sicuramente sono un tassello in tutte queste cose elencate, un tassello che fino adesso era un po' ignorato e che adesso invece viene studiato. Senta, professor Morelli, ma quando noi parliamo di probiotici li identifichiamo, ma alla fine siamo un po' confusi, perché questo termine lo leggiamo sugli yogurt, ma anche sugli integratori. Sì, allora, qui il Ministero della Salute italiano, che in questo è veramente stato un precursore, perché già dal 2001 ha cominciato a emanare dei documenti proprio sui probiotici, anche perché forse un altro dato che è poco noto è che l'Italia è considerato un mercato di riferimento per i probiotici, sia a livello di alimenti che a livello di integratori alimentari, quindi il Ministero è intervenuto. Allora, probiotico è un alimento o un integratore alimentare che possa fornire al consumatore non meno di 1 miliardo di batteri vivi al giorno. Ecco, poi di solito gli alimenti vengono calcolati in modo da prevedere un consumo per lungo periodo, gli integratori per un periodo più ristretto ma magari un pochino più efficace, un pochino più intensivo, e quindi cambiano le dosi. Però tutte devono rispettare la quantità di non meno di 1 miliardo di batteri vivi al giorno. Ci sono dei momenti della giornata in cui è meglio consumare il probiotico, assumerlo? Ma ci sono degli studi che dimostrano che se si introducono a stomaco vuoto, anche se può sembrare un po' un controsenso, perché lo stomaco vuoto è abbastanza acido, però in realtà a stomaco vuoto il passaggio nello stomaco è più veloce, e quello che possono ottenere i probiotici è l'acido dello stomaco, vengono uccisi dall'acido dello stomaco. Quindi se li mettiamo, diciamo, in fondo a un pranzo, gli rendiamo un po' dura la vita. Se li mettiamo in testa a un pasto, li facilitiamo. Quindi meglio in testa un pasto? Sì, la colazione o cose di questo genere, un pasto leggero ancora meglio. Professor Morelli, grazie per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie. E noi torniamo insieme al professor Antonio Gasbarrini, perché c'è Riccardo dalla provincia di Cagliari che ci aspetta all'800 24 00 24, stress e pancia. Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qui, ci racconti. Sì, niente, io volevo semplicemente magari dare un contributo personale alla discussione, più che altro, non so se possa essere utile, ma io ho avuto un vissuto abbastanza, diciamo, complicato con la mia pancia in generale, dallo stomaco all'intestino, sì dalla giovane età, in realtà dall'adolescenza, probabilmente dovuto a dell'ansia, non so, all'atteggiamento verso la vita, ecco, chiamiamola così, ci sono stati una sfilza di dottori che hanno, diciamo, cercato di regolarizzare anche la mia assunzione del cibo. C'erano dei cibi che addirittura dopo appena mezz'ora che venivano ingeriti dal sottoscritto, il sottoscritto doveva correre in un bagno in preda a dolori atroci. Sì. Perché era veramente incredibile. Beh, io questa cosa l'ho risolta molto recentemente. Non mi lasci sulle spine, vada. Come? Tramite il Kung Fu. Tramite il Kung Fu? Sì, il Tai Chi Chuan, in particolare la meditazione. Perché sono delle tecniche, professor Gasbarrini, che anche lei le consiglia, che... Ah, guardi, assolutamente. Io è ovvio che devo sempre fare la parte del medico. Beh, il certo. Primo passaggio è sempre quello di escludere che ci sia una patologia sotto. Ok. E questo lo mettiamo da parte. Una volta che abbiamo escluso questo, non c'è dubbio che combattere una situazione di stress e di nervosismo diventa fondamentale. E, prima l'ascoltatore ha detto una cosa molto, molto bella, l'ha corretto con una tecnica di, in qualche modo, rilassamento. Certo. Ma il Tai Chi, ad esempio, ha tantissime, diciamo, giustificazioni cliniche, perché alcune tecniche di rilassamento, poi la gente può ovviamente usare le modalità più strane, riescono in qualche modo a combattere lo stress e quindi riescono in qualche modo a combattere questa interazione molto dannosa che lo stress ha sul nostro intestino. Se io posso fare un inciso, che credo che però possa essere interessante, stanno adesso uscendo sempre più dati che dicono ognuno di noi porta dentro il proprio intestino buona parte del microbiota che gli passa la mamma alla nascita, nei primi mesi di vita. Se il microbiota, come prima ha detto il professor Morelli, può avere un influsso anche sul nostro comportamento, sullo stress, è chiaro che noi in qualche modo ci stiamo portando dietro quello che la mamma e il papà ci hanno trasmesso, che non solo sono solo i geni, ma sono anche batteri intestinali. Questo solo per dire che tutte le concezioni che noi avevamo della genetica, no, del rischio genetico di trasmissione di una malattia, non è solo dato dai geni che portiamo, ma anche da come cresciamo nei primi anni di vita e da quello che ci trasmettono i nostri genitori. E questo si chiama epigenetica. Quindi è qualcosa di più complesso, ma molto interessante. Assolutamente. Noi adesso dobbiamo dare la linea ai mercati e al meteo. Voi rimanete con me, perché nella seconda parte della trasmissione parleremo di alcuni cibi che stressano la nostra pancia, il nostro stomaco, il nostro intestino. È sempre uno stress che produce sempre degli effetti. Cerchiamo di vederci più chiaro. Essere e benessere. Questa è la canzone che non ha la bilancia. Viva la pancia. Viva la pancia, ma soprattutto viva quella comunità batterica che vive nel nostro intestino, che ha un'importanza cruciale per la vita dell'organismo. Lo abbiamo anticipato, i biologi la considerano, tali batteri, un vero e proprio organo all'interno del corpo umano. Con il professor Gasbarrini abbiamo capito e cercato di capire quanto viene influenzato dallo stress, una sorta di bufera di vento che colpisce questa flora, che possiamo paragonare ad un vivaio, ma anche i cibi hanno un'influenza naturalmente sulla flora batterica intestinale. Professor Gasbarrini, se lo stress l'abbiamo paragonato a una bufera di vento, i cibi che cosa possono produrre in questo nostro vivaio? Innanzitutto, per precisare meglio quello che abbiamo detto finora, dobbiamo ricordarci che nell'intestino il microbiota ha un grande valore, però viene in qualche modo tenuto distante dalle nostre cellule intestinali, da quello che si chiama barriera intestinale, che è un sistema di componenti molto complesso, fatto da cellule epiteliali, sistema immune, da muco e da batteri al suo esterno. Quindi noi dobbiamo pensare sempre che in alcune condizioni la barriera intestinale può essere danneggiata. Eliminiamo ovviamente le condizioni patologiche, no? Quando certo. C'è una malattia maggiore. Torniamo al discorso dello stress. Lo stress può determinare quello che noi in termini medici chiamiamo leaky gut, che è un termine inglese per dire intestino iperpermeabile, cioè questa barriera intestinale si altera un pochettino e a volte alcuni frammenti di batteri, ma anche frammenti di cibo, possono andare a contatto col sistema immune e questo può determinare una reazione avversa. Come questo può combinarsi in qualche modo a quando andiamo a mangiare fuori? Io faccio sempre un esempio molto semplice. Noi tante volte andiamo in un ristorante e ad esempio non ci sediamo subito, c'è tanta gente, stiamo in attesa, quindi noi arriviamo, siamo affamati, dobbiamo aspettare mezz'ora per sederci, questo ci può dare tensione e nervosismo, poi magari ci sediamo, il cameriere non arriva subito, ci fanno ordinare dopo 20 minuti, insomma da quando siamo arrivati al ristorante dove pensavamo di mangiare a volte può passare un'ora prima che cominciamo a mangiare. Questo ovviamente è una situazione di enorme stress, no? Perché noi combiniamo la fame a un'attesa che ci innervosisce. In quel momento l'intestino, proprio per rispondere a questo stress, può diventare iperpermeabile. È una reazione classica di risposta dell'intestino. Voi capite che se noi mangiamo in quel momento, questo potrebbe in qualche modo rendere quello che noi stiamo mangiando, magari un elemento eccezionale, non perfettamente digeribile. Capisce quant'è importante, quindi anche in un momento di piacere, come andare in un ristorante, essere nelle condizioni mentali, fisiche e psicologiche migliori. Se siamo stressati, quello che mangiamo può avere dei problemi. Ma ci sono degli alimenti che stressano comunque il nostro intestino, indipendentemente dall'attesa. Beh, voglio dire, è chiaro che se uno mangia, no, un alimento molto impegnativo da digerire, è chiaro che questo per il nostro organismo è faticoso. Quindi, ad esempio, se uno fa un eccesso, non so, di proteine, un eccesso di grassi, un eccesso di alcolici, questo rende estremamente difficile per il nostro intestino un buon processo digestivo. Quindi bisognerebbe provare a combinare tutte queste cose, queste, diciamo, condizioni per avere un buon processo. Cioè dovremmo in qualche modo diventare anche dico dei medici, nel senso che dobbiamo capire che quello che stiamo mettendo dentro deve essere digerito e assorbito e non possiamo esagerare, sia nelle condizioni di stress che nella qualità degli alimenti. Francesca, dalla provincia di Varese, all'800 24 0024, benvenuta e buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo proporre questa domanda. Siccome io appunto ho, come dice il professore, il meteorismo, la pancia sempre gonfia, lo stomaco, sono molto magra, per cui appunto questa sensazione di pesantezza dopo pranzo, ma anche durante il giorno, perché c'ho come se fosse un fagotto, e volevo sapere se questa condizione di ansia, stress può determinare anche la celiachia, nel senso questo sintomo può essere associato alla celiachia, perché io ho proposto questa cosa al mio medico, ma ha detto no, lei ha il colon irritabile. Non ha la celiachia, cioè lei la proposta l'ha fatta, ma insomma il medico non le ha dato soddisfazione. Vediamo che cosa dice il professor Gasbarrini. Beh, la domanda che ha fatto l'ascoltatrice anche qua è di grande interesse. Vero. E sicuramente aprirà un mondo nel futuro. Cioè, il concetto qual è al di là della celiachia? Molti di noi nascono con la predisposizione genetica a sviluppare una malattia, no? Nel caso della celiachia si sa che esiste quello che noi chiamiamo in termini tecnici un aplotipo genetico di rischio, e su quell'aplotipo genetico si può sviluppare la celiachia, cioè molte persone, anche in Italia, diciamo una su quattro, una su cinque, possono tecnicamente diventare celiache, ma non lo sono, hanno solo il rischio genetico. Quando è che diventano celiache? Qui è un problema, può essere una grande infezione, può essere un farmaco, ma può essere anche una grande condizione di stress, cioè a un certo punto una condizione faticosa per il nostro intestino, che sia stress, che sia un danno, ci fa diventare celiaci, ad esempio, ma questo non è valido solo per la celiachia, è valido un po' per tutte le malattie autoimmuni, quindi un rischio genetico e un evento molto spesso stressante che slatentizza una malattia come la malattia celiaca. Quindi il concetto è che lo stress può avere un esito transitorio, no? Siamo stressati, dobbiamo correre al bagno, ma molto spesso un evento stressante, soprattutto quando è prolungato e pesante per l'organismo, può attivare delle vere e proprie malattie come la celiachia. E quindi, come risposta alla nostra ascoltatrice, un suggerimento? Beh, innanzitutto bisogna andare a cercare tutte le cause di meteorismo e di, tra virgolette, cosiddetto colon irritabile. Calcolate che per tanti anni è stato battezzato come colon irritabile, in realtà una banale intolleranza al lattosio, no? Sapete che negli italiani è molto comune la carenza di un enzima, che è l'enzima lattasi, che è quello che ci fa degradare e poi assorbire lo zucchero lattosio. Ma anche una celiachia può essere per tanti anni stata considerata un colon irritabile. Poi abbiamo visto che molti di quei colon irritabili in realtà erano malati di malattia celiaca. Adesso va di moda un'altra condizione molto difficile sfumata, però la sensibilità al glutine. Che è la sensibilità al glutine. Insomma, ci sono tante condizioni, tante malattie che possono essere responsabili di questo colon irritabile. E poi c'è una sensibilità individuale ad alcuni tipi di alimenti. Me lo sono perso perché i messaggi al 349-238-6666 sono davvero tanti. Ma Mauro ci dice: chissà, vediamo, non so se in tono di sfida o se accennate tra i cibi no, il latte e il pomodoro. Chissà se lo accontentiamo. Il latte l'abbiamo già accennato ora, in alcune. Ora qui siamo entrati sul pomodoro, nel mondo delle reazioni avverse agli alimenti, no? Sì. Che possono essere divise tra, diciamo, forme allergiche vere e proprie, che fortunatamente sono abbastanza poche, e intolleranze alimentari, che invece sono tantissime. È chiaro che nell'esempio del lattosio si può avere sia una reazione allergica che una reazione di intolleranza. Più comune è l'intolleranza al lattosio, come vi ho detto prima, per il deficit dell'enzima lattasi. Nel caso del pomodoro sono diverse le possibilità, cioè quando il pomodoro può dare dei problemi. Beh, innanzitutto il pomodoro in alcune sue formulazioni può favorire un po' il reflusso acido in esofago, quindi dare un po' di esofagite, chi no già soffre di questo. Poi ci sono anche delle reazioni allergiche, no? Però è chiaro che qui stiamo entrando in un macromondo dove che deve essere affrontato tutti, con grande ciascuno, cautela, che quello delle reazioni avverse agli ciascuno alimenti. Di noi può dire, come si dice, la sua. 800 24 00 24, dite quindi la vostra, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. Ed eccoci di nuovo insieme al professor Antonio Gasbarrini. Le leggo un sms: quali test sono efficaci per intolleranze alimentari, celiachia esclusa ad esempio, o colon irritabile? È difficile. Questa è una domanda difficile perché l'intolleranza... Una domanda un po' cattivella, eh? È cattiva perché... Gliel'ho letta apposta. Ma sulle allergie alimentari noi abbiamo tante linee guida, no? Le società che si occupano di allergie, i prick test, i patch test, i RAS test, diciamo che ci sono delle linee molto, molto chiare. Sulle intolleranze è tutto più difficile, anche perché poi c'è un macro mondo di test assolutamente non documentati, hai capito? Diciamo che bisogna andare da un medico gastroenterologo, nutrizionista, allergologo, esperto, che ci guidi in questo macro mondo di esami riconosciuti ed esami che non hanno nessuna valenza clinica e fanno solo perdere dei soldi. Andiamo a Catania, c'è Sebastiano, buongiorno. Buongiorno. Come va lì? Bel tempo, grazie. Ah, bene, bene. Allora, mi dica invece come sta lei. Beh, insomma, io diciamo che sono un soggetto ansioso da circa 10 anni e ho sofferto anche a 29 anni, ho avuto una melena dovuta alla presenza di Helicobacter pylori, essendo un bevitore e un fumatore, anche per il lavoro che faccio, perché sono un agente di commercio. Il problema è che l'anno scorso ho avuto un'altra melena. Però i medici non mi dicono nulla, cioè non è che mi dicono: Sebastiano, sai, andiamo a fare degli esami o delle analisi appropriate, no? Sì. Mi dicono solo di prendere l'esomeprazolo di 20 e uno la mattina a vita. Ma per me questo non è una cosa... Non è una soluzione. Professor Gasbarrini, ulcere. Qui abbiamo di fronte a noi una vera e propria patologia, no? Cioè, da quello che ho capito, la melena vuol dire che nelle feci è presente il sangue digerito, le feci diventano nere, scure e bisogna andare a cercare ovviamente la causa di questo sanguinamento, che può essere anche una causa pericolosa, per cui va assolutamente fatta una gastroscopia. La gastroscopia in questo caso ha documentato la presenza di un'ulcera dello duodeno, che è praticamente un'ulcera della parte dell'intestino subito dopo lo stomaco, causata da questo batterio che ha rivoluzionato la medicina e la gastroenterologia, che è l'Helicobacter pylori, che è la prima causa di gastrite, di ulcera, ed è anche un fattore di rischio per il tumore dello stomaco. Quindi, nel caso del nostro ascoltatore, bisogna assolutamente essere certi che l'ulcera sia guarita, che l'ulcera non stia più sanguinando, era lei la causa del sanguinamento, che l'Helicobacter sia stato eliminato. L'Helicobacter a volte si elimina con fatica, per cui bisogna essere certi di averlo tolto. Nel caso dell'Helicobacter pylori non ci sia più, è chiaro che bisogna cercare perché questo paziente sta ancora sanguinando dallo stomaco e dal duodeno, e su questo entra la vera e propria medicina ufficiale. Però attenzione, è anche vero che un soggetto come questo, come il nostro ascoltatore, deve essere un soggetto che quando va in un ristorante deve avere un'alimentazione particolare. Ad esempio, dico una cosa più banale, è un paziente che sicuramente non potrà e non deve bere alcolici, perché in una fase di ulcera duodenale il nostro stomaco e il nostro duodeno sono molto molto delicati. Quindi, oltre a fare i farmaci che il medico gli suggerirà, deve avere un'alimentazione molto attenta anche quando va in un ristorante. Ecco, e il ristoratore potrebbe in fondo dargli una mano, perché noi viviamo in un paese con un patrimonio enogastronomico che il mondo ci invidia. Abbiamo un cibo buono che ci fa anche bene. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso. Buongiorno. Buongiorno. La cucina italiana è ricca di piatti che sono nutrizionalmente corretti. Da qui l'idea, dottor Cuccia, di aiutare, no? I ristoratori a diventare un po' operatori anche di benessere. Ma l'idea è un'idea che nasce da una lunghissima tradizione di una cucina o di una serie di cucine, visto che esistono tante cucine regionali italiane, che hanno operato per secoli all'insegna del buono che fa bene. E questa tradizione, che è retta fino ai nostri nonni, ai nostri genitori sicuramente, oggi rischia di interrompersi, e quindi nell'interrompersi queste tradizioni familiari, forse il passaggio che Luminari, con il professor Gasbarrini che abbiamo appena ascoltato, il Ministero della Sanità, il Gambero Rosso, stanno ragionando appunto e stanno operando perché ci siano delle cinghie di trasmissione tra le quali, non uniche, la ristorazione intesa sia nello chef ma anche chi in sala può suggerire dei menù alternativi a chi ha delle patologie, delle allergie, e quindi è un meccanismo in cui il Gambero Rosso si mette a servizio della scienza italiana e della tradizione italiana perché ci sia una conoscenza diffusa di queste prassi positive. Quindi, insomma, diventa molto stretta anche la collaborazione con i gastroenterologi, anche con i medici. Beh, indispensabile, perché noi, come ripeto sempre, siamo la cornice di questa eccellenza italiana, il Gambero Rosso, ma molte altre entità ovviamente non esisterebbero se non ci fosse questa qualità, certo, questa tradizione e questo appeal mondiale. Cioè, quando parliamo del buono che fa bene, parliamo sicuramente del nostro paese, ma la prossima stagione anche di espansione del cibo italiano o nasce a questa insegna o l'Italian Sounding, cioè i prodotti che assomigliano a quelli italiani ma non sono italiani, potrebbero addirittura prevalere sulla nostra industria e le nostre tradizioni. Professor Gasbarrini, quindi tra poco potremo andare al ristorante e avere magari il ristoratore, il cameriere, il maître che ci dica un piatto molto povero di sale, ideale per chi ha la pressione un po' altina? In 30 secondi, prima di chiudere, guardi, ci faccia sognare. Io fare il proprio mestiere, ed è chiaro che il medico è sempre colui, no, che è l'operatore di salute per eccellenza, però diciamo che chi distribuisce, no, nutrizione, quindi distribuisce un momento di benessere, potrebbe, deve essere anche in qualche modo consapevole che può dare quel cibo a una persona che ha un'altra patologia. Per cui in un processo di formazione di tutti gli operatori enogastronomici deve esserci anche una grande attenzione per la salute, perché poi sono loro alla fine quelli che distribuiscono la nutrizione agli utenti. Certo. Insomma, a tavola non si invecchia, ma a tavola addirittura ci si può curare. Grazie a Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso, al nostro grazie professor Antonio Gasbarrini, a Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Ce l'ho fatta, così vi posso salutare per bene, dirmi che mi potete scrivere, potete seguirci su Facebook e su Twitter e soprattutto darvi appuntamento a domani. Intanto, buonissima giornata da Nicoletta. Essere e benessere.